Tornate in diretta, ragazzi. Sandrino, vi ricordate di me? Allora, seconda puntata stasera per quanto concerne heavy metal. Allora, che cosa andiamo a vedere stasera? Andiamo a capire un attimino un altro genere metal che appresso a quello dell'altra volta ci ha conquistati all'epoca. Allora, di che parlo? Parlo di air metal. Allora, che cos'è l'air metal? Siamo nel 1973 e i maggiori fautori di questo genere possiamo ricordarli nei Kiss, un gruppo favoloso dell'epoca che utilizzava, tutti ricorderanno, parrucche, trucco, vestiti sgargianti durante i concerti e niente, praticamente dal loro lavoro, pensiamo che tutt'oggi sono ancora in attività, andiamo a estrarre quella che è stata la hit più grandiosa. Ci alleniamo all'ascolto. Qual è? Ragazzi, I was made for loving you. I wanna see it in your eyes. Ragazzi, torniamo in diretta. Questo era il pezzone dei Kiss, tratto esattamente dall'album Dynasty del 1979, il loro maggiore successo, I Was Made for Loving You. Allora, adesso per darvi una panoramica dei Kiss metterò una traccia che invece viene molto molto dopo. Vi ho detto all'inizio che questo gruppo è tuttora in attività. Nel 2012 tira fuori un album chiamato Destroyed Resurrected e da questo album metteremo Detroit Rock City. Allora, una diatriba che c'è sempre dietro questo genere musicale è tra chi lo chiama in un modo e chi lo chiama in un altro. Allora, questo genere musicale all'inizio fu chiamato glam rock, infatti si sente che a livello di ritmo non corrisponde esattamente al metal che conosciamo. Diventò air metal proprio perché insomma era dovuto alle capigliature assai sgargianti dei musicisti. Allora, non solo questo, perché io adesso vi faccio sentire quella che è la storia e vedrete i gruppi cambieranno nel tempo fino a diventare vero air metal puro. Intanto Detroit Rock City. Con Detroit Rock City. Ottimo ragazzi, abbiamo anche una voce femminile in radio, la nostra ospite Francesca, saluta Francesca. Bella. Bella. Allora, appresso ai Kiss con Detroit Rock City ci spostiamo e andiamo a parlare di un altro mostro sacro dell'epoca, un altro che aveva iniziato con il genere hair metal, poi si è evoluto in tantissime maniere. Parliamo di Alice Cooper. Alice Cooper all'inizio aveva un gruppo fondato da lui proprio all'inizio degli anni 70, dopo qualche anno si staccò dal gruppo e intraprese una carriera da solista e oggi è tuttora famoso e tuttora in attività perché per i suoi concerti stile horror, per trattare comunque sia nel suo hair metal motivi come morte, tortura, cose che si avvicinano di più ai Black Sabbath che abbiamo trattato l'altra volta e che sono venuti giusto poco prima. Allora, dall'album Trash, il più bello che ha mai fatto, ci gustiamo adesso Poison. Ok ragazzi, torniamo in onda a Radio Risacca. Questo è il maggior successo di Alice Cooper, Poison, tratto dall'album Trash 1989. Dallo stesso album, perché è pazzesco, possiamo trarre un'altra traccia. Questa è Bed of Nails. Eccoci ragazzi, torniamo in diretta, Sandrino, Francesca, tutto l'ambiente scherzoso qui di ZK, ci divertiamo. Allora, in mezzo a tutti i gruppi statunitensi che ascolteremo stasera, ci sta pure un'intrusione di un gruppo invece British. Questi qua sono inglesi, tutti l'avranno capito perché sono i maggiori esponenti dell'epoca. Stiamo parlando dei Def Leppard. Def Leppard si costituiscono nel 1977, possiamo dire 10 anni dopo, nell'87, riescono a fare il loro maggior album, quello che è stato più famoso di tutti, il più rinomato, quello che ha venduto di più, e si chiamava Hysteria. Allora, da Hysteria del 1977 andiamo a tirar fuori un traccione, questo si chiama Pour Some Sugar on Me. Like a bomb, baby, come and get it. Eccoci in voce, un saluto enorme a tutte e tutti che ci ascoltano e vai col Metal Zone. Un saluto a tutte e tutte di Radio Risacca, vi amiamo tutti, ciao! Radio Risacca, la radio che spacca. Ottimo, questo era il saluto dei nostri amici, ragazzi, e insomma, allora... eravamo rimasti con i Def Leppard con Pour Some Sugar on Me. Dello stesso album, Hysteria 1987, traiamo anche Love Bites. A voi. Come on, I don't want to touch you too much, baby. Insomma, ragazzi, questa era Love Bites dei Def Leppard. Diciamo che la traduzione del titolo ci dice precisamente quello a cui abbiamo assistito. Una gran bella power ballad, come tante a partire da ora, poi insomma sono state fatte negli anni. Bellissime canzoni da ballare in coppia e tutto quanto. Noi qui abbiamo sperimentato, siamo stati bravi, lo possiamo dire. Da paura. Allora, adesso dobbiamo momentaneamente lasciare il romanticismo per qualcosa di molto più marcato. Praticamente in questa puntata ho fatto una ricostruzione di quello che era l'hair metal a partire dall'inizio. Avete sentito cose diciamo un po' più tranquille, ma il vero gruppo che poi alla fine ha coltivato questo genere negli anni è nato un pelino dopo, a ridosso degli anni Ottanta. Eravamo nel 1981. Il gruppo di cui parlo sono i famosissimi Motley Crue. Chiunque ha dimestichezza col genere non può non conoscerli, con i loro nomi stravaganti, con le loro 8.000 storie di abuso di droga e alcol. Sono stati, diciamo, insomma, molto molto indisciplinati questi ragazzi. Alcuni di loro si sono sposati con ragazze provenienti dalla serie di Baywatch, insomma cose proprio incredibili. Io posso dire che i Motley Crue sono veramente una bomba e dal vivo spaccano tutto, se vi è mai capitato di sentirli, perché purtroppo non penso li potremmo più risentire. C'è stato ultimamente un annuncio di una, diciamo, di una reunion del gruppo, ma insomma biglietti venduti, ma tutto fermo per il Covid, chissà che succederà. Allora, io parto da quella che è la pietra miliare dei Motley Crue, e attenti a voi, questa è Kickstart My Heart. We'll be right back. A bomba per Dio, a bomba! E che cazzo! Insomma, questi erano i Motley Crue, mo vediamo se se riusciamo a capire. Kickstart My Heart, dall'album Dr. Feelgood, 1989. Allora ragazzi, andiamo un po' più avanti nel tempo, vi faccio sentire un altro pezzone, l'ultimo di questa puntata. Questi sono sempre i Motley Crue, dall'album Saints of Los Angeles, 2002. Questa è Saints of Los Angeles, cazzi vostri! Sandrino, rimetti la gabber! Ragazzi, eccoci di nuovo tornati qui in studio, Radio Risacca, la radio che spacca e si è sentito, credo proprio che si è sentito. Allora, spero ragazzi stasera vi sia piaciuto il mio programma Air Metal, abbiamo capito insomma che cosa hanno portato gli sviluppi del classic metal analizzato la scorsa volta, ciò che fu iniziato dai Black Sabbath, continuato adesso da questi artisti e anche evoluto in altri tipi di generi. Allora, io tornerò il prossimo sabato con un'altra puntata dove continueremo la nostra storia rigorosamente a sorpresa. Per questa sera vi ringrazio, vi abbraccio e vi bacio. Alessandro, Radio Risacca, tutti i ragazzi che hanno partecipato questo pomeriggio a tutti i programmi, redazionale, Bimbi dal Basso, rubrica Punk and Dark, tutto quanto. Vi ringraziano e ci sentiamo la prossima volta. Stay tuned, Radio Risacca. Ciao ciao. E un ringraziamento speciale, un grazie a Sandrino che ci ha, come al solito, come ogni sabato, allietato con la propria rubrica, ormai da due sabati sul metal. E Radio Risacca, sono le 21.00 sul litorale romano, non sappiamo nelle altre aree della città che ora sia. Non ci interessa. Ma neanche ci interessa, infatti. E noi ci avviamo verso la conclusione, siccome tra un'ora c'è il coprifuoco di merda del cazzo. Se vogliamo possiamo passare anche l'ultima ora a parlare solo del coprifuoco, come abbiamo fatto finora in ogni intervallo musicale. Stavamo qui a discutere, a dibattere sul coprifuoco, no? Sì, vabbè, adesso chiaramente potremmo, ma non lo faremo. Ma non lo faremo sicuramente. Perché adesso ci sentiamo un po' di musica prima di chiudere e poi salutiamo tutti e tutte. Questi saluti, così. Insomma, poi ecco, la cosa divertente è che a me un rutto non fa ridere dalla quinta elementare, invece in queste situazioni... Ma un rutto alla radio è tutta un'altra cosa. Esatto, fa comunque ridere nonostante i 30 o i 50 anni, giusto? Secondo me... Secondo me questo è il titolo per la prossima maglietta. Un rutto alla radio fa comunque ridere. Un rutto alla radio fa sempre ridere. Radio potrebbe anche essere tipo uno spunto per un'altra canzone. Ma non so, dobbiamo sentire il nostro DJ Bob Pirla, che in questo momento non c'è, però potremmo chiamarlo e chiedergli se può. Se può. Mi sa che è troppo vecchio per venire. Sì, perché sta su Uber ormai 60, cioè, oddio, 60, 70, non, so, non mi ricordo. Comunque una categoria a rischio. A rischio di che cosa poi? Boh. Dai, boh. Cioè, a rischio random. Random rischio, esatto, dai, esatto, su. Esatto. Vabbè, a questo punto sentiamoci un pezzo. Sì, sentiamo un pezzo e sentiamolo nel senso di udire. Cioè, con le orecchie. Se no, zan, zan, zan, zan. Se no come? No, infatti non ci sono altri sensi. No, ci sono, ma non li vogliamo dire, questa è la verità. Perché non ci interessa. No, forse ci interessa, ma ci abbiamo comunque grande vergogna. Andiamo sempre su un'autoproduzione, direi, no? Sì, perché no? Perché no? Però no techno. Non oggi, techno, dai. Infatti dai. Sta techno basta, dai, mettiamo qualcos'altro. Mettiamo una cosa, aspetta, ce l'hai quelle de... Di un po'? Come si chiama quel CD di autoproduzione in cui ha pubblicato pure Sor Braciola? Sor Braciola, come sempre... Porco Dio, tipo quella roba di mezza cumbia. No, ci manca. Non c'è? No, ah, secondo... ecco, bello quello. Quale? Quello che hai cliccato sotto. Questo? No, quello sopra. Questo? Sì. 9? No, questo è nascosto. No, è bello dire no, sì, ma non si sa di cosa si tratta. No, nessuno gli ascoltatori lo sa, sappiamo solo noi che guardiamo il nostro schermo da 125.000 pollici, che è molto grande. Molto bello questo. Ti piace? No? Sì. Allora dai, chiudiamo qua con Radio Risacca, ci sentiamo un po' di musica, poi forse rinterverremo, anzi sicuramente. Ma perché no? Tanto manca ancora... 57 minuti. Tempo da andare a casa, insomma, tempo, dai, sì, insomma. Perché copri fuoco. Va bene, allora ci sentiamo un pezzo dei Walkie Talkie, i fonici, un pezzo dedicato a tutti quelli che... A tutti i fonici, a tutti quelli che loro definiscono giustamente l'interfaccia audio-sociale. Audio-sociale, assolutamente. Bello, no? Bellissimo, i fonici, bellissimo. Cioè stanno in mezzo fra il gruppo e il pubblico. Sì, sì, poi è tipo quelle situazioni in cui proprio quell'intermezzo fisicamente parlando è tipo una specie di altro palcoscenico, cioè oltre al palco in cui si esibisce il gruppo c'è l'altro palco che è quello dei fonici in cui magari tante persone si interfacciano a dare consigli. E che comunque è vitale, che comunque è vitale. Cioè, è tipo uno spazio di socialità, lo spazio del fonico, no? Oh, certo. Alza questo, abbassa il gain. Sì. L'Italia è così, è un paese dei navigatori, poeti, fonici e allenatori dei calci. esatto. C'è scritto anche su quella costruzione strana che sta all'euro, no? Proprio fonici, c'è scritto in grassetto. Sì. Italia, paese di fonici. Italia, fonici. E questi sono i fonici walkie talkie, un pezzone comunque. Buon ascolto. Buon ascolto. Faccio un saluto. Può iniziare un disco in un modo più birla di così. Quando mi chiedono se ho voglia di pulire i cessi, io dico sì, anzi me lo aspettavo, non aspettavo altro. Infilare le mani nello sbocco, nella piscia di un altro. Desideravo altro magari un tempo, ed ora invece mi trovo a sapere cosa hai mangiato ieri a cena senza che tu me lo dica. Il lavoro mi nobilita, e tu non sai quanti lavori degradanti e merdosi io sia disposto a fare. E non solo, non sai quanti lavori di merda io farei con più entusiasmo ancora di quello che sfoggeresti tu se uscissi una sera in un weekend di inizio primavera, sobillato dall'atmosfera, con gli amici al concerto. Osservi due elementi, il pubblico ed il gruppo sul palco. Non ti stai concentrando perché per te non c'è niente al di là dello schema che